giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Seconda udienza e nuovo rinvio al 7 febbraio del processo per lo sgombero del presidio No Green Pass nel porto di Trieste, avvenuto nell'ottobre 2021 nel periodo dell'emergenza Covid. Rimasti 9 gli imputati che devono rispondere di violenza contro le forze di polizia, tra loro anche il consigliere comunale Ugo Rossi. Disagi e ritardi questa mattina sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia a causa di un veicolo che ha danneggiato un passaggio a livello. Rallentamenti di quasi un'ora alla circolazione sia dei treni regionali che di quelli a lunga percorrenza. La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato quasi 1 milione di euro a 2 coniugi gestori di un canile friulano. Avevano ricevuto finanziamenti pubblici provenienti da 53 comuni tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia per garantire il benessere degli animali ospitati, con prestazioni però mai effettuate. A un anno dalla chiusura dei due consultori triestini di San Giacomo e San Giovanni, i comitati promotori delle proteste hanno fatto il punto sulla situazione dei servizi. 10 nuove pietre d'inciampo dedicate ad altrettanti partigiani e ufficiali antifascisti udinesi e deportati che trovarono la morte nei campi di concentramento nazisti vengono collocate tra oggi e domani a Udine in vari luoghi della città nell'ambito delle iniziative per il giorno della memoria. Cibo biologico, un modo di alimentarsi senza dubbio più sano e altrettanto senza dubbio più costoso. Non è detto però che una scelta più convenzionale porti necessariamente a problemi di salute. Le 12:31 minuti e 45 secondi, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e da Daniele Lettigi in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 24 gennaio, che apriamo con la cronaca giudiziaria. Sono infatti rimasti 9 gli imputati del processo per lo sgombero del porto di Trieste del 18 ottobre del 2021. Alcune persone avevano partecipato alla manifestazione No Green Pass e sono accusate di aver usato violenza contro le forze di polizia. Tra questi anche il consigliere comunale Ugo Rossi. E poco fa è stata rinviata al 7 febbraio anche la seconda udienza predibattimentale, dopo che nella prima, ad ottobre scorso, in 8 avevano optato per il rito abbreviato o la messa alla prova. Striscioni di solidarietà affissi al muro del Tribunale di Trieste e le vecchie bandiere No Green Pass allacciate ai lampioni manifestano decine di cittadini di fronte al Palazzo di Giustizia nel giorno in cui si tiene la prosecuzione dell'udienza predibattimentale del processo che vede 9 imputati accusati di aver offeso verbalmente e fisicamente con spinte, calci e lanci di bottiglia alle forze dell'ordine alla manifestazione No Green Pass del 18 ottobre del 2021. Alla prima udienza lo scorso ottobre in 8 avevano optato per il rito abbreviato per la messa a prova, estinguendo il reato con lavori socialmente utili. Oggi si doveva discutere l'eccezione per incompetenza territoriale presentata dall'avvocato Pier Umberto Starace per 2 dei suoi 4 clienti, eccezione però che è stata rifiutata dalla giudice Luisa Pittalis, che ha rinviato per acquisire nuovo materiale video l'udienza al prossimo 7 febbraio. Fuori dal tribunale la testimonianza di uno degli imputati, Tito De Toni. Sono accusato di resistenza pubblico ufficiale perché mi trovavo al porto, sono conosciuto dalla Digos e come tante altre persone di fronte a un ordine delle autorità di lasciare quel presidio che per noi era un presidio di resistenza rispetto a un'imposizione dello Stato sulle nostre vite, sui nostri salari, sulla nostra esistenza come era il Green Pass, non me ne sono andato via. Pago per la mia esposizione pubblica, non per altro, pago anche la mia volontà di giustizia, di lotta. Da Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Disagi e ritardi si sono registrati anche questa mattina per chi viaggiava sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia a causa di un veicolo che poco dopo le 7 ha danneggiato un passaggio a livello a San Donà di Piave, determinando forti rallentamenti alla circolazione sia dei treni regionali che di quelli a lunga percorrenza. Sono stati segnalati ritardi fino a 50 minuti e cancellazioni che hanno riguardato anche 2 convogli Frecciarossa per Milano e Torino. Attualmente i problemi sono stati risolti e la circolazione è tornata alla normalità. E da questa mattina via Dalviano Trieste, nel rione di Chiarbola, è stata chiusa la circolazione in entrambi i sensi nel tratto compreso tra via Caduti sul Lavoro a via dei Lavoratori a causa del cedimento del manto stradale causato da uno scavo che è in corso attualmente nella zona. È consentito il passaggio soltanto dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso. Sul posto sta operando tuttora la polizia locale. La cronaca: i finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno sequestrato su ordine della Corte dei Conti oltre 986.000 euro a 2 coniugi, gestori di un canile situato nel Friuli occidentale. Si tratta del totale dei contributi erogati tra il 2011 e il 2020 da 53 comuni. situati in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia, per prestazioni veterinarie tese a garantire il benessere degli animali ospitati, che però, pur essendo state certificate, non erano mai state effettuate. Visite veterinarie inesistenti su cani in gran parte già deceduti per una truffa da quasi 1 milione di euro. La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato su ordine della Corte dei Conti 986 mila euro ai due coniugi gestori del canile Il Rifugio di Villotta di Chions in Friuli Occidentale. I contributi pubblici elargiti alla struttura tra il 2011 e il 2020 da 53 comuni di tre regioni, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia, riguardavano prestazioni veterinarie certificate, ma secondo le Fiamme Gialle mai erogate. Tra gli animali indicati come ospiti ne figuravano 152 che i finanzieri hanno scoperto essere tenuti presso l'abitazione della coppia in pessime condizioni igienico-sanitarie, di cui 132 già deceduti. La Procura della Repubblica di Pordenone di recente ha rinviato a giudizio i due per il reato di truffa continuata ai danni di enti territoriali, mentre la Guardia di Finanza ha segnalato il danno erariale alla Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, sotto la cui direzione ha ricostruito il flusso dei contributi percepiti dal canile negli ultimi 10 anni. A conclusione delle indagini è stato autorizzato il sequestro conservativo dell'importo ricevuto dai coniugi su 27 rapporti bancari e 21 beni immobili, tra cui lo stesso canile e una villa di lusso di proprietà della coppia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, la polizia ha arrestato a Trieste un 57enne rumeno che deve scontare una pena di 1 anno e 6 mesi comminata dal Tribunale di Firenze per il reato di furto. Nello specifico l'uomo è stato rintracciato a bordo di un autobus di linea a San Giovanni di Duino. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria. E proseguono intanto i controlli della polizia su tutto l'altopiano carsico nell'ambito dei rafforzamenti intrapresi per la prevenzione dei reati predatori e in particolare per quelli riconducibili ai furti in abitazione. Con la conclusione del 184° corso allievi della Polizia Penitenziaria, 1.327 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Udine verranno assegnati 7 nuovi agenti, mentre 2 nuovi agenti verranno assegnati a quella di Tolmezzo. Queste nuove assunzioni si innestano nel percorso intrapreso dal Governo negli ultimi 28 mesi, finalizzato a potenziare gli organici delle forze dell'ordine, in particolare la Polizia Penitenziaria. L'area dell'ex Silos di Trieste, di proprietà di Coop Alleanza 3.0, non è stata ancora acquisita dall'immobiliare austriaca che la scorsa estate aveva annunciato il proprio interesse. Ci sarebbero infatti ancora degli ostacoli di natura burocratica. Intanto il progetto affidato all'architetto monfalconese Francesco Morena va avanti. Lo sgombero a giugno e poi la bonifica in ottobre. I camion hanno portato via 160 tonnellate di immondizia. Operazioni di pulizia eseguite dal proprietario dell'immobile Coop Alleanza 3.0 prima dell'annunciata cessione all'immobiliare austriaca, la Schwarzer Felsen Immobilien. Il rogito era fissato per il 30 settembre 2024, data prorogata al 31 dicembre. L'acquirente ha poi chiesto una seconda proroga fissata al 30 aprile del 2025. Ce lo conferma l'avvocato Federico Pastor in qualità di legale della Schwarzer Felsen Immobilien, imputando i ritardi alle difficoltà nel reperire la liquidità necessaria da parte dell'immobiliare. Valore dell'area di 50.000 metri quadri, 20 milioni di euro. Fonti Alleanza Coop 3.0 non si dicono preoccupate, confermano le due proroghe e la certezza che la compravendita verrà portata a termine. Il progetto di riqualificazione è stato affidato allo studio internazionale di architettura del monfalconese Francesco Morena, tra i suoi lavori anche la sede di Civibank a Cividale. Sarà più di un centro polifunzionale dove ci saranno servizi aperti al pubblico H24, così Morena, che conferma il suo impegno ai primi incontri informali con la sovrintendenza. Morena, con Alberto Novarini, è impegnato anche nella riqualifica dell'ex area fiera di Montebello a Trieste, acquisita dall'austriaca MID. A breve dovrebbero arrivare le tanto attese approvazioni definitive al progetto del valore di 70 milioni di euro. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. A un anno dalla chiusura dei due consultori triestini di San Giacomo e di San Giovanni, che aveva suscitato una forte protesta popolare, il Comitato di Partecipazione per i Consultori e non una di meno Trieste hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione dei servizi. Sentiamo. Non è stata una riorganizzazione del servizio, ma nei fatti, affermano, si è trattato di chiusure. Ad un anno dalla via Trieste della struttura complessa Salute della Donna e dell'Età Evolutiva e della Famiglia, nelle sedi a Roiano e Valmaura, con i tre spoke a Muggia, Duino e San Dorligo, e la sede in via Sai per minori vittime di maltrattamenti, il Comitato per i Consultori di Trieste, e non una di meno, chiedono ad Asugi di fare un passo indietro. Vogliono la riapertura della sede a San Giacomo e di quella all'interno dell'ex ospedale psichiatrico. Maria Vanto, del Comitato per i Consultori. Come dire, siamo piuttosto sorpresi che si dica che non servono un consultorio ogni 20.000 abitanti. Lo dicono le normative nazionali, anche il recente piano decreto che dà indicazione alle regioni di riorganizzare e potenziare l'assistenza territoriale ribadisce uno ogni 20.000 abitanti. L'osservazione di 12 mesi attuata dal Comitato non registra di fatto disservizi all'utenza, ma porta alla richiesta di implementare gli impegni. In realtà il rapporto tra operatori e popolazione è quello che bisogna tenere presente. Non soltanto dire, beh, ci sono, dove ce n'era 4, adesso ce n'è 2, ma c'è l'assistente sociale, o c'è lo psicologo, o c'è la ginecologa, quindi ho l'equipe multidisciplinare. Non è così. La carenza di personale in Asugi, secondo i comitati, non è una scusa. Non si può prendere la carenza di personale come un dato che non si può mai modificare. Se manca personale bisogna trovarlo. Cioè, questo è il mandato che ha il servizio sanitario, deve garantire le risposte ai cittadini. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel 2024 i mutui green concessi da Credi Friuli per l'acquisto casa e surroga relativi a immobili in classe energetica o superiore sono stati oltre 200 su un totale di 900, il 22,2. Lo ha reso noto l'Istituto spiegando che si tratta di un segnale della sempre maggiore attenzione alla dimensione ambientale e alle soluzioni destinate all'efficientamento energetico da parte della clientela. In generale per la banca l'anno appena trascorso ha visto ottimi risultati per l'intera proposta dei mutui casa sostenuti dal taglio dei tassi deciso dalla BCE. I volumi erogati sono infatti cresciuti del 45% rispetto al 2023 per un totale di 129 milioni di euro. Anche l'importo medio erogato per singolo mutuo casa è aumentato, attestandosi a 143.000 euro contro i 119.000 euro della media regionale. 10 nuove pietre d'inciampo dedicate ad altrettanti partigiani e ufficiali antifascisti udinesi deportati che trovarono la morte nei campi di concentramento nazisti vengono collocate oggi e domani a Udine in vari luoghi della città nell'ambito delle iniziative per il giorno della memoria. Sono ritornati a casa vittime della persecuzione nazifascista senza sepolture deportati nei campi di concentramento tedeschi. A Udine la posa di 10 nuove pietre d'inciampo per il giorno della memoria. Questa mattina la prima dedicata a Vittorio Cos, inviato al mezzo che dopo l'armistizio del 1943 sceglie la resistenza nelle file della divisione Garibaldi in Natisone, nome di battaglia Sesto. Viene catturato durante una retata nell'agosto del 44 e a settembre deportato con il treno da Trieste a Dachau, ma non è la sua destinazione finale. Arriva al campo di Hamburg-Neuengamme. Non si sa quando muore, la sua salma non è recuperata. La sua storia, come quella degli altri 9 cittadini udinesi a cui sono dedicate le pietre d'inciampo, viene raccontata agli studenti che partecipano alle cerimonie nelle vie e piazze della città. Oggi e domani sono più di 1.000 ragazze e ragazzi dalle primarie alle secondarie. L'iniziativa, voluta dal comune di Udine, è realizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e di quella degli ex deportati nei campi nazisti. A Domenico Noro, Edgardo Pasinato, Fausto Spivac, Gagliano Vincenzo Tomada, Agnello Rico, Renato Rossini, Gaetano Scolari, Francesco Telesca e Michele Toldo sono dedicate le altre pietre posate. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E alle 12.44 minuti siamo arrivati alla pagina del meteo, il cielo è da nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa, a Trieste e Udine 9 gradi e 5 decimi, a Gorizia 11 gradi, a Pordenone 8 gradi, a Tolmezzo e Forni di Sopra 6 gradi, a Tarvisio 4 gradi e mezzo, a Piancavallo 2 gradi e 5 decimi, a Sappada meno 1 grado. Sul Monte Zoncolano 1 grado e 5 decimi, sul Monte Lussari meno 5 decimi di grado. Passando sulla costa, a Grado ci sono 9 gradi, a Lignano 8 gradi e 5 decimi. E ora per sapere cosa ci aspetta per il meteo in questo fine settimana, sentiamo il previsore dell'ARPA, Marcellino Salvador. Per quanto riguarda il tempo nel weekend, diciamo subito che sarà ancora umido, affluiscono correnti ancora da sud-ovest, molto umide, con una perturbazione che arriverà domenica e che porterà delle piogge piuttosto diffuse sul territorio, specie sulla fascia prealpina, quota neve oltre i 1300 metri circa. Quindi giornata di sabato con cielo coperto e speranza di qualche schiarita per quanto riguarda la fascia alpina verso il Cadore e il Tarvisiano. Invece domenica cielo coperto ovunque con piogge e neve oltre 1300 metri circa. Anche lunedì avremo cielo coperto con qualche debole pioggia, una perturbazione più forte con scirocco sostenuto sulla costa e precipitazioni che diventeranno intense sulla zona montana l'avremo martedì. Quindi continua una fase più autunnale che invernale. Oggi a Buongiorno Regione, la nostra rubrica del mattino, ci siamo occupati di cibo biologico, un modo di alimentarsi senza dubbio più sano e altrettanto senza dubbio più costoso. Non è detto però che una scelta più convenzionale porti necessariamente a problemi di salute. Che il biologico costi di più lo sappiamo tutti. Qualche esempio dai banchi di un supermercato: un chilo di carote a 5 euro e 18 centesimi al chilo contro il prodotto convenzionale che costa 1 euro e 59. Per le banane la differenza è di 3 euro in più al chilo, la marmellata costa il doppio. Ben noti anche i benefici apportati all'ambiente dall'agricoltura che non utilizza prodotti chimici. Quanto agli effetti sulla salute umana, le incertezze tra allarmismi e ricerche serie aumentano. I residui dei pesticidi nei cibi possono davvero provocare malattie serie come il cancro? Lo abbiamo chiesto a Diego Serraino, a lungo epidemiologo del CRO. Mangiare bio aiuta, un'alimentazione più sana e più appropriata, ma non è che non mangiare bio provochi un aumento dei tumori, assolutamente no. Questo non è vero. Ricordiamoci che i fattori di rischio principali rimangono sempre fumo di sigarette, responsabile di un terzo di tutti i tumori, consumo di bevande alcoliche e poi ovviamente l'eccesso di calorie. Il biologico ha tanti vantaggi per la salute, il principale è sicuramente quello dell'alta percentuale di antiossidanti, di sostanze antiossidanti che sono molto più presenti nei cibi biologici di quelli invece prodotti normalmente, quello che possiamo chiamare così, ma pensiamo semplicemente al fatto che non vengono usati pesticidi, fertilizzanti, antibiotici negli allevamenti, no? Questo è un grande vantaggio. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport inizia oggi e andrà avanti fino a domenica al Bell'Italia Village di Lignano Sabbiadoro il secondo trofeo Union Water Cup, l'acqua che unisce, che vedrà sfidarsi nelle piscine di Lignano oltre 400 atleti normodotati e paralimpici provenienti da tutta Italia e dall'estero in 6 discipline. E domani la distilleria di Ronchi di Percoto sarà il palcoscenico della 50ª edizione del premio Nonino, un tributo dedicato alla valorizzazione della civiltà contadina e alla salvaguardia degli antichi vitigni autoctoni friulani, istituito dall'omonima famiglia nel 1975. Per Arte e Libro ETS, la cooperativa sociale udinese impegnata nell'inserimento lavorativo di persone con disabilità, il 2025 sarà segnato a giugno dalla partecipazione a una sessione delle Nazioni Unite a New York, ma già mercoledì 29 gennaio la presidente Katia Mignogna potrà raccontare Arte e Libro in occasione della tappa in Arabia Saudita a Gedda a bordo della nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, uno spazio innovativo alla scoperta dei tesori del nostro paese. La Fondazione Italia USA ha assegnato a 6 laureate dell'Università di Udine il premio America Giovani al Talento Universitario. Il riconoscimento è destinato a neolaureate e neolaureati con percorsi di studi di eccellenza per sostenerli nell'ingresso nel mondo del lavoro internazionale. Le vincitrici sono Tania Abbiss, Arianna Azzano, Elisabetta Castagnavitz, Margherita Nigris, Beatrice Polano, Maria Chiara Tripodo. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Camera dei Deputati a Roma. Il premio è una borsa di studio per partecipare gratuitamente al Master in Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy, organizzato dalla Fondazione che ogni anno premia 1000 laureati eccellenti. Raymond Sovino festeggia i 20 anni di attività artistica riassunti nel suo ultimo lavoro, Atelier, con 3 serate speciali che si terranno a Udine nell'atelier, appunto, di Giorgio Celiberti. L'album, registrato proprio nello studio dell'artista friulano, sarà presentato questa sera alle 18.30, domani alla stessa ora e domenica alle 17. Il disco ripercorre la carriera di Anzovino con brani suonati in piano solo. Una targa sarà apposta alla memoria di Demetrio Volcic nei rinnovati giardini pubblici di Gorizia per suggellare il forte legame della città al giornalista, senatore ed europarlamentare. Per la precisione, la targa sarà messa intorno alla fontana centrale, davanti alla casa dove abitò, ed è prevista una cerimonia per la scopertura della targa mercoledì 29 gennaio alle 11. Il polacco Krzysztof Wilicki, autentica leggenda dell'alpinismo himalayano negli anni 80 e 90, sarà oggi a Trieste per un incontro pubblico organizzato dall'Associazione Alpina Slovena di Trieste, in occasione del 120° anniversario di attività. Appuntamento al Narodni Dom di Via Filzi alle 19. Wilicki vanta 3 prime scalate di montagne sopra gli 8.000 metri in inverno, tra le quali l'Everest. Federcaccia del Friuli Venezia Giulia organizza un convegno sui temi della custodia delle armi e dell'attività venatoria, temi ancora più urgenti dopo l'incidente avvenuto 2 mesi fa sul Carso Triestino. Appuntamento alle 19 nella sala convegni della comunità di montagna della Carnia a Tolmezzo. È dedicato all'Isis e alla sua opera di distruzione del patrimonio culturale dell'antica Mesopotamia il secondo incontro degli appuntamenti con la storia, curati dall'associazione Friuli Storia. Ad affrontare l'argomento lo storico e archeologo Daniele Morandi Bonacossi, alle 18.30 nella sala consiliare di Reana del Royale. Infine ricordiamo che per il cartellone dell'ERT oggi andrà in scena in anteprima nazionale un nuovo allestimento di Cincillà, una delle operette italiane di maggior successo, composta da Virgilio Aranzato, musica e Carlo Lombardo, libretto, esattamente 100 anni fa. Alle 20.45 l'auditorium Biagio Marin di Grado. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15, vi ricordiamo il telegiornale alle 14. È tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.